All'inizio del regno di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Disse: così dice il Signore a me: fatti delle corde e un giogo che imporrai sul collo. Poi invia un messaggio al re di Edom, al re di Moab, al re dei figli di Ammon, al re di Tiro e al re di Sidone, per mezzo degli ambasciatori venuti a Gerusalemme presso Sedecia, re di Giuda. Incaricali di dire ai loro signori: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Così direte ai vostri signori: io ho fatto la terra, l'uomo e il bestiame che è sulla superficie della terra, con la mia grande potenza e con il mio braccio teso, e l'ho data a chi sembrò bene agli occhi miei. Ed ora io ho consegnato tutti questi paesi in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo. Perfino il bestiame del campo l'ho dato a lui per il suo servizio. Tutte le nazioni serviranno a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché non verrà il tempo anche per il suo paese. Allora lo assoggetteranno potenti nazioni e grandi re. La nazione o quel regno che non vorrà servire a lui, a Nabucodonosor, re di Babilonia, o non vorrà porre il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia con la spada e con la fame e con la peste, io visiterò quella nazione, oracolo del Signore, finché io li abbia distrutti per mezzo suo. Voi perciò non date ascolto ai vostri profeti, ai vostri indovini, ai vostri sognatori, ai vostri maghi e ai vostri stregoni, a coloro che vi dicono: non assoggettatevi al re di Babilonia. Sì, essi vi profetizzano menzogna per farvi allontanare dalla vostra terra. Così io vi disperderò e andrete in rovina. Ma quella nazione che porrà il suo collo sotto il giogo del re di Babilonia e lo servirà, io la farò riposare nella sua terra, oracolo del Signore. Lavorerà e l'abiterà. Al re Sedecia, re di Giuda, io parlai esattamente in questi termini e gli dissi: sottoponete il vostro collo al giogo del re di Babilonia e servite lui ed il suo popolo, così vivrete. Perché vorrete morire di spada, di fame e di peste, tu e il tuo popolo, come ha parlato il Signore contro quella nazione che non vuol servire il re di Babilonia? Non ascoltate le parole dei profeti che vi dicono: non servite il re di Babilonia, poiché essi vi profetizzano menzogna. Sì, io non li ho inviati, oracolo del Signore, ed essi profetizzano in mio nome per la menzogna, affinché io vi disperda e siate distrutti, voi e quei profeti che vi fanno profezie. Ai sacerdoti e a tutto questo popolo ho parlato così: così dice il Signore: non ascoltate le parole dei vostri profeti che vi fanno profezie dicendo: ecco, gli arredi della casa del Signore saranno riportati da Babilonia immediatamente, poiché essi vi profetizzano menzogna. Non date loro ascolto. Servite il re di Babilonia e vivrete. Perché questa città deve divenire una rovina? Se essi fossero profeti, e se la parola del Signore fosse con loro, intercederebbero presso il Signore degli eserciti, affinché gli arredi rimasti nella casa del Signore e nella casa del re di Giuda e in Gerusalemme non vadano a Babilonia. Intanto così dice il Signore degli eserciti riguardo alle colonne, al mare di bronzo, alle basi e al resto degli arredi lasciati in questa città, che Nabucodonosor, re di Babilonia, non ha asportato quando deportò Jeconia, figlio di Joiachim, re di Giuda, da Gerusalemme. Dice dunque il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo agli arredi lasciati nella casa del Signore e nella casa del re di Giuda e in Gerusalemme: saranno portati in Babilonia, ed ivi resteranno fino al giorno che io li visiterò, oracolo del Signore, e li farò uscire e ritornare in questo luogo.